Platone, Repubblica, libro decimo. Del resto, continuai, ripensandoci trovo che i nostri provvedimenti sono suscettivi di render veramente perfetta la città che stiamo fondando, e lo dico soprattutto se penso alle disposizioni sulla poesia. Quali? Il fatto che abbiamo assolutamente escluso ogni poesia a carattere mimetico o imitativo. Non c'è dubbio alcuno che l'esclusione deve essere completa, e anzi, in questo momento, ne ho l'impressione, le ragioni appaiono più evidenti, ora che sono state singolarmente e partitamente distinte le facoltà dell'anima. Come intendi? A dirla tra noi, e non ne farete certo denuncia ai poeti autori di tragedie e a tutti gli altri seguaci di mimesi, tutta questa roba mi pare che sia causa di rovina vera e propria nel carattere, se chi ascolta non ha modo da adibire quale rimedio la conoscenza precisa del come stiano le cose. In che senso dici questo? Te lo dirò. Tuttavia, un rapporto d'amicizia quasi e di rispetto che m'accompagna fin dai primi anni di fronte a Omero mi rende riluttante a parlare di questo. È un fatto. Omero è stato il primo maestro e senza eccezioni il duce di tutti questi nostri affascinanti poeti tragici. Oh, ma trattandosi della verità non si deve aver rispetto per nessuno. Ripeto, ti dirò senz'altro il mio pensiero. Benissimo. Sta attento allora. Piuttosto, guarda, dammi una risposta. E tu domanda. Mi sapresti dare la definizione di mimesi, cioè di imitazione? Nemmeno io, vedi, ho il concetto chiaro di ciò che sia mimesi. Figurati allora, rispondeva, se l'avrò io. Del resto, dissi, non sarebbe nemmeno una cosa molto strana. Quanti hanno gli occhi meno buoni, vedono prima di chi ha la vista acuta. Ammettiamolo pure, rispondeva. In ogni caso, finché ci sei presente, non mi sentirei in grado di manifestare qualche mia impressione che mi sembrasse anche esatta. Guarda tu, insomma. Cosa credi allora? Se cominciassimo la nostra indagine seguendo il solito metodo? Secondo la nostra dottrina, infatti, siamo soliti porre un'unica singola specie al di sopra delle innumerevoli cose singolari alle quali attribuiamo lo stesso nome della specie. Capisci o no? Capisco. Prendiamo dunque anche in questo momento una di queste innumeri cose, quella che più ti piace. Per esempio, se vuoi, letti e tavole sono innumerevoli. Come no? Ma idee, tu sai bene, relative a queste due cose, ve ne sono due sole. Una del letto, una della tavola. Sì, e noi siamo soliti dire, anzi, che l'artefice con lo sguardo fisso verso l'idea dell'uno o dell'altro oggetto in questo atteggiamento produce i letti, un altro le tavole di cui ci serviamo, e così di seguito per altri esempi. In realtà, nessuno degli artefici lavora l'idea in se stessa, questo non c'è dubbio, come vuoi che fosse possibile? Certo, non può. Allora sta attento. La persona di cui trattiamo, che tipo di artefice ti par che sia? Quale persona? Chi è capace di far lui solo tutti gli oggetti che, per conto loro, i singoli artefici producono? Che potente uomo, mi stai dicendo una meraviglia? Aspetta un po', e avrai ragione ben presto di meraviglia maggiore. Questo medesimo artefice non soltanto è capace di fare ogni sorta d'oggetti, ma anche se stesso, ma inoltre poi terra, cielo, dei e gli astri tutti del firmamento e quello che c'è sotterra col suo lavoro egli produce. Caspita, esclamò, tu mi accenni a un mostro d'abilità. Non mi credi? Dimmi allora, pensi che quest'artefice non ci sia nemmeno? O invece che in un certo senso l'autore di queste meraviglie ci possa anche essere e in un altro senso no? E non t'accorgi piuttosto che tu stesso potresti diventare adatto a produrre questi miracoli tutti? In un certo modo, si capisce. E quale questo modo? Oh, un modo non difficile, risposi. lo si pratica con grande rapidità. Anzi, guarda, se vuoi, c'è un metodo rapidissimo. Prendi, se ti piace, uno specchio. Giralo da tutte le parti. Ecco, in un istante farai il sole e gli astri del cielo, e poi la terra, e poi te stesso e gli altri animali, e oggetti e piante, e tutto ciò che ora si diceva. Sì, apparenze, non certo oggetti che abbiano vera esistenza. Bene, dissi, sei arrivato al punto giusto. In mezzo a simili artefici, penso io, è anche il pittore, non credi? Come no? Ma potrei obiettare che il pittore effettivamente non produce le cose che fa. In un certo senso, tuttavia, anche il pittore fa un letto, non è vero? Sì, ma anche lui produce un'apparenza soltanto. E cosa ne dici per l'operaio che fabbrica i letti? Non affermavi poco fa, appunto, che egli non fa la specie, l'esseità, cioè, di quella singola cosa, bensì egli fa uno dei singoli innumeri letti? Sì, affermavo questo. Ne consegue che, se il falegname non produce l'esseità del letto, non produce nemmeno una cosa che è, bensì qualche cosa in qualche modo simile a ciò che è, ma compiutezza d'essere non ne trovi in questa cosa. E se ci fosse chi afferma la compiutezza dell'opera prodotta dall'artefice di letti o da qualsiasi altro artefice, finirebbe per dir cosa non vera. Indubbiamente, rispondeva, non sarebbe in ogni caso l'opinione di chi studia su tali argomenti. Allora non ci dobbiamo affatto stupire se, considerando la verità, anche l'opera del fabbricatore di letti è qualche cosa di imperfetto, una debole riproduzione rispetto alla sua verità. No, non ci meraviglieremo. E io allora? Cosa diresti se, basando la nostra ricerca su esempi di questo genere, facessimo indagine per vedere che cosa sia questo mimeta? Facciamo pure. Concludendo, ci risultano tre tipi di letto. Un letto è quello che esiste nella costituzione dell'ideale natura. Questo letto, possiamo dire, come credo, lo ha fatto il Dio, o forse diremo qualcun altro. No, non lo credo. Un letto invece è quello prodotto dall'artigiano. Sì, rispondeva. E uno quello fatto dal pittore, o no? E sia pure. Allora, pittore, artefice di letti, Dio. Sono in tre e hanno tutti e tre conoscenza e rapporto con tre tipi diversi di letti. Sì, tre. Dunque, sia che Dio non abbia voluto, sia che qualche necessità lo adducesse a non fare più d'un letto nella costituzione dell'ideale natura, in ogni caso così egli fece, e fece quell'unico letto, esseità e puro oggetto. Due letti di questo tipo, o più di due, non furono prodotti da Dio, e non c'è caso che mai siano prodotti. E perché? Perché, risposi, se egli ne avesse fatti anche due solamente, al di sopra ne sarebbe apparso a sua volta un altro unico, del quale i primi due letti, l'uno e l'altro, riferirebbero la specie o l'idea, e in tale caso l'esseità del letto, il puro oggetto cioè, sarebbe quell'unico e non i due primi. Giusto, rispondeva, e concludiamo. Iddio, penso, sapeva perfettamente questa ragione. Volendo quindi essere lui stesso veramente artefice del letto, quello che è essere nella plenitudine intera e non un qualsiasi letto, e d'altra parte, non volendo nemmeno operare come comune artefice di letti, Iddio fece nella costituzione dell'ideale natura quell'unico letto. D'accordo. E allora, vorresti che diamo a Dio il nome di Fiturgo, di padre creatore, cioè, o un altro nome del genere? Giustissimo, rispondeva. Certo, secondo costituzione di ideale natura, egli ha fatto questa cosa e ogni altra pure. E cosa ti sembra del falegname? Non è un artefice del letto? Sì. Ah, e diremo che anche il pittore è artefice del letto, uno che fa veramente il letto? In nessun modo. Ma il pittore cosa produce a proposito del letto? Disse lui, mi pare che sia convenientissimo per lui questo appellativo. imitatore o mimeta di quanto i precedenti hanno prodotto come artefici. E va bene, ripresi. In conclusione, tu chiami imitatore o mimeta chi è artefice della terza generazione di cose. Indubbiamente, rispondeva. Allora, ciò ammesso, anche il poeta tragico, dato che è imitatore, si pone naturalmente quale terzo dopo il re e la verità, e così gli altri mimeti tutti. Forse sì. Bene, sul mimeta o imitatore siamo d'accordo. Devi dirmi ora la seguente cosa sul pittore. Ti pare che il pittore rivolga il suo sforzo a imitar via via i singoli esemplari esistenti nella costituzione dell'ideale natura, o non piuttosto le opere dei vari artefici? Le opere dei vari artefici. E come sono veramente? O piuttosto, come appaiono? Mi devi definire ancora questo punto. Come intendi? Così. Credi ci sia differenza se si guarda un letto di fianco, oppure di fronte, o da qualsiasi direzione? O invece differenza non ce n'è nessuna, e pare soltanto che il letto sia diverso, e altri esempi sono simili? Così, rispondeva, pare che vi sia differenza, in sé la cosa è sempre quella. Sta attento allora a questo, precisamente. Come si trova la pittura nelle singole sue produzioni? Diresti che consideri le cose tali quali sono e che così cerchi di imitarle? O piuttosto, non si volge forse all'apparenza, così come l'apparenza si mostra? La pittura, insomma, è imitazione di parvenze o imitazione di verità? Di parvenze, rispondeva. Ogni mimesi, dunque, è remota dalla verità. Anzi, questo è il motivo per cui il mimeta può fare indistintamente ogni cosa, perché piccola parte d'ogni cosa egli attinge, non più di un simulacro e di un'immagine. Per esempio, il pittore, diciamo, ci dipingerà un calzolaio, un falegname, qualsiasi altro artefice, eppure nulla affatto conosce delle singole arti. Ciò nonostante, supponendo che egli sia un abile pittore, potrà illudere bimbi e gente ignara. E dipingendo un falegname e facendolo vedere da lontano, potrà far credere che si tratta veramente d'un falegname. Ma su questo punto, mio caro, conviene pensare a una risoluzione come la seguente. Quando ci si viene a dire che si è fatta conoscenza con personaggi esperti in tutti i mestieri e così pure in tutte quelle discipline che singolarmente uno solo conosce, e anzi si dice il nostro personaggio le conosce tutte queste discipline con possesso più pieno e più sicuro, in tal caso conviene dire che il nostro interlocutore è un po' ingenuo. In realtà si è imbattuto in un ciarlatano, abile ad imitare ogni cosa, e ne fu ingannato. E così è uscito con l'impressione che il suo uomo sia un miracolo di sapienza. Ma per una ragione soltanto, perché il nostro interlocutore non era in grado di far giusta investigazione su scienza, non scienza, mimesi. Oh, verissimo, diceva lui. Allora è il momento, continuai, di volgersi a considerare la poesia sublime a tono tragico e con essa il suo duce, Omero. Non è raro udire che questi poeti sanno tutte le arti, sanno tutto ciò che è proprio del mondo umano, virtù e vizi, e così pure ciò che appartiene al mondo divino. È necessario, infatti, che il bravo poeta, seppur deve pensare bene, s'accinga la sua opera conoscendo i singoli argomenti. Se questo non è, non sarà mai in grado di far poesia. In conclusione, si tratta di mettere in luce questi due punti. O gli uditori di poesia sono stati tratti in inganno da tali mimeti e non s'accorgono, mentre ne contemplano l'opera, che è distante dall'essere per 3 gradi, opera in tal caso assai facile da produrre per chi pur la verità non conosce, in quanto l'artefice produce fantasmi e non qualche cosa che abbia una sua ragione di sussistenza. Oppure le loro asserzioni corrispondono alla verità e certamente i buoni poeti conoscono i fatti a proposito dei quali la gente ha l'impressione di sentirli parlare così bene. «Oh, certo», rispondeva, «si tratta di fare quest'indagine. E credi dunque che, se ci fosse chi è in grado di produrre l'una cosa e l'altra, cioè la cosa imitata in un primo grado dall'idea e così pure l'immagine vuota di questa stessa cosa, credi insomma che costui si lascerebbe andare all'imitazione prodotta con tanto studio di queste vuote immagini? Credi che sarà questo per lui l'ideale supremo della vita? No, non lo credo certo. Ma, supponendo che egli abbia conoscenza della vera condizione di quanto va imitando, non c'è dubbio alcuno che, per cominciare, volgerà ogni sua attività a produrre ciò che imita direttamente l'idea e non le vuote immagini. Anzi, farà ogni sforzo per lasciare opere molte e belle, ma in ogni caso preferirà d'essere il lodato, non il lodatore. Credo, rispondeva, l'onore e il vantaggio non sarebbero pari nell'uno e nell'altro caso. In conclusione, lasceremo andare le altre questioni e non faremo un processo chiedendo ad Omero o a qualsiasi altro poeta se veramente era medico e non soltanto imitatore in argomenti di medicina. Non chiederemo a lui e agli altri quale poeta antico o moderno abbia ridonato, come per esempio Asclepio, la salute a qualcuno. Così pure non chiederemo quali discepoli abbia potuto lasciare, come appunto Asclepio lasciò i suoi discendenti. E potremmo far lo stesso per altre arti, ma lasceremo stare, perché ci sono argomenti di importanza capitale sui quali particolarmente tratta Omero. Per esempio, guerre, spedizioni militari, amministrazione di singoli stati, non esclusa l'educazione dei giovani. Su questi punti è giusto indubbiamente rivolgergli domanda e dirgli: Omero carissimo, se per quanto concerne la virtù non sei il terzo, remoto dalla verità, se non sei un artefice d'ombre e di fantasmi, quell'artefice che, abbiamo ammesso, si deve chiamare mimeta o anche imitatore, se ciò non sei, ma appartieni bensì al secondo grado, se sei anche capace di conoscere quali occupazioni e quali costumanze rendano migliori o peggiori gli uomini nella loro vita privata come anche nella pubblica, se ciò è vero, devi allora indicarci quale città, per opera tua, abbia avuto governo migliore. Così, ad esempio, per opera di Licurgo, Sparta e altre città, grandi e piccole ma numerose assai, ebbero a provar particolari vantaggi per opera d'altri legislatori. E tu, allora, che ritieni di essere stato legislatore valente, dimmi quale città ha avuto da te beneficio di leggi e di istituzioni. Italia e Sicilia esaltano Caronda, noi Solone, chi esalta il tuo nome? Credi, Glaucone, che Omero avrà modo di citare qualche città? Non credo, rispondeva, se stai almeno a sentire gli stessi Omeridi. Ma si conserva ricordo di qualche guerra condotta a buon fine sotto il comando di lui o per influsso dei suoi consigli? Nessuna, ma almeno, dato che avrebbe dovuto essere uomo esperto nell'azione, si citeranno invenzioni sue d'ogni genere, utilissime per il progresso delle singole arti e in genere per il progresso delle varie attività umane. Così, ad esempio, a proposito di Talete Milesio e di Anacarsi Scita, nessuna cosa di questo genere. Ma, se non nella vita pubblica, in privato almeno si potrà dire che Omero è stato, quando era vivo, un maestro eletto, amato e venerato dai discepoli, i quali tramandano un metodo omerico di vita. Così Pitagora personalmente ebbe venerazione grande e i suoi successori fino a tutt'oggi possono parlare di una visione pitagorica dell'esistenza, ragione precipua della loro fama tra gli altri uomini. «Eh no, non si dice nemmeno questo», rispondeva. «Infatti Creofilo, caro Socrate, era sì compagno d'Omero, ma se ne consideri l'educazione, t'apparirà forse più ridicolo del suo stesso nome, seppur sono vere le notizie che si ripetono su Omero. Si dice, vedi, che Creofilo trascurasse un poco il suo compagno quando era vivo. Eh già, risposi, questa è la voce. Ma se veramente Omero avesse avuto facoltà educatrici e avesse potuto rendere migliori gli uomini, in quanto sapeva l'argomento per esatta scienza e non ne faceva soltanto vuote imitazioni, credi, o Glaucone, che non si sarebbe acquistato amici in grande numero? Credi che non ne avrebbe goduto la stima e l'amore? Mettiamo Protagora di Abdera, mettiamo Prodigo di Ceo e altri, quanti ne vuoi. Costoro arrivano a infondere una certa convinzione nell'animo di chi frequenta le loro scuole. Non si è in grado di governare patria e famiglia se non gli si affida l'iniziativa della propria educazione. E questi sofisti sono anzi venerati per questa sapienza, al punto che, quasi quasi, i loro amici li portano in trionfo. E secondo te, i contemporanei avrebbero lasciato che Omero ed Esiodo andassero in giro a fare i rapsodi se nei due poeti ci fosse stata una capacità di far davvero bene agli uomini? Oh, li avrebbero tenuti in un conto più geloso che loro. Avrebbero voluto che rimanessero vicini. In ogni caso, li avrebbero scortati quasi tutori ovunque fossero andati, cercando d'acquistare con l'aiuto di quelli sufficiente educazione. Mi pare, rispondeva, che tu abbia ragione, Socrate. E allora, cominciando da Omero, dovremmo porre tutti i poeti e gli altri artisti nel novero dei mimeti, i quali imitano ombre e immagini di virtù, ombre poi e immagini di ciò che essi in genere trattano quale argomento della loro poesia. Alla verità, certo, non pervengono. Si diceva, per esempio, poco fa, che il pittore sarà capace di rappresentare un calzolaio, ma sarà un'apparenza. D'altra parte, il nostro pittore non sa per nulla l'arte del calzolaio, e in quest'inganno cadranno gli inesperti, gente cioè che guarda solo ai colori e al disegno. Ma certo, in conclusione, allo stesso modo potremmo dire, io credo, che il poeta desume alcune tonalità di colore proprie di singole arti e, valendosi di parole e di frasi, vi aggiunge una superficiale colorazione. Ma lo scrittore, in ogni modo, non conosce affatto la cosa. Unico scopo è per lui fare opera imitativa. Così, chi guarda dallo stesso punto di vista, dalle parole cioè, avrà l'impressione che si tratta di cose magnifiche. Tanto se in un discorso opportunamente disposto in versi o in musica si parli di calzoleria, quanto d'arte militare o di qualsiasi altro tema. Così grande e così intensa forza di incantamento, per naturale legge, hanno tali composizioni. Ma provati un po' a toglier via i colori della musica e della poesia. Provati a dire quegli stessi argomenti ignudi e soli. Credo che saprai bene cosa ne salta fuori. Ne hai fatto certo esperienza. Sì, certo. E non ti pare che assomiglino, dissi, al volto di persona nel fiore sì degli anni, non bella tuttavia? Cosa credi che apparirebbe quando precocemente svanirà quel fiore? Hai ragione, disse lui. Su via allora, osserva quanto segue. Questo creatore d'ombre, il mimeta, diciamo, non sa nulla di quanto effettivamente esiste, solo ne conosce l'apparenza, non è così? Sì. Allora non conviene lasciare a mezzo l'argomento, si tratta di vederne chiaramente le difficoltà. Parla, rispondeva. Un pittore, diciamo, dipingerà freni e briglie, sì, ma se si tratta di farle, le farà invece uno che lavora il cuoio o un fabbro. Sì, certo. E ti par forse che il pittore ne sappia qualche cosa del come dovrebbero essere veramente briglie e freno? Anzi, non lo sa nemmeno il cuoiaio e il fabbro che ha fatto l'uno e l'altro oggetto, bensì chi anche ne sa far uso, il cavallerizzo. Verissimo. E non diremo lo stesso per ogni altro oggetto? Come? Che per ogni oggetto vi sono tre arti: quella che fa uso veramente dell'oggetto, quella che lo produce, quella che lo imita. Sì. Del resto, virtù, bellezza e perfezione in qualsiasi oggetto, come pure in qualsiasi vivente, in qualsiasi opera, sono totalmente rivolte all'uso per il quale ciascuna cosa è congegnata dall'uomo o prodotta dalla natura. Così è. Ne segue una conseguenza ineluttabile, Chi fa uso delle singole cose ne ha esperienza ed è capace di mostrare all'artista produttore i pregi o i difetti in rapporto all'uso cui l'oggetto deve servire. Per esempio, il flautista può mostrare al fabbricatore di flauti, quando si stanno fabbricando strumenti del genere, quelli che sono buoni per l'uso, ed il flautista darà opportuni consigli sul come si debba farli e l'altro gli darà ascolto. Come no? Allora, l'uno ha chiara nozione della cosa e dà suoi giudizi circa i flauti, buoni o cattivi, l'altro crede a lui e li fa in conseguenza. Sì. Per uno stesso utensile, dunque, chi lo produce avrà soltanto retta opinione sui pregi e sui difetti, e ciò avverrà in quanto stia insieme con persona che ne abbia piena conoscenza e in quanto ne senta parlare da uno che sa. Invece, chi ne fa uso avrà scienza vera e propria, indubbiamente, e il mimeta avrà forse scienza sugli oggetti da lui dipinti, una scienza che provenga dall'uso e che gli consenta di giudicare se siano belli e costruiti a giusto modo oppure no? O avrà forse retta opinione proveniente dal fatto che egli può stare insieme con persona che di quegli oggetti abbia sicura nozione, dal fatto cioè che gli vengano forniti precisi criteri su ciò che conviene dipingere, nell'uno, nell'altro caso? Insomma, questo nostro imitatore non saprà e nemmeno avrà retta opinione sui pregi o sui difetti di quanto viene imitando. Non pare. Il nostro imitatore, quando lavora, si trova dunque in condizione assai graziosa se si bada alla conoscenza esatta di ciò che fa. È poco graziosa davvero. In ogni caso, continuerà ad imitare, pur senza sapere come le singole cose siano, buone o difettose. Bensì, è chiaro, si volgerà ad imitare ciò che sembra bello alla gente in tutto ignara della cosa. Sicuro, non c'è altro. Bene, questi punti, se non erro, li abbiamo conclusi come si deve. E, precisamente, l'imitatore o mimeta nulla sa di ciò che va imitando. Ne segue che la mimesi è un divertimento, non una cosa seria. Inoltre, quanti trattano poesia tragica e solenne, cioè la tragedia vera e propria, come pure la poesia epica, tutti costoro sono al più alto grado imitatori. Indubbiamente. Ma, continuai, quest'operazione mimetica non è nel terzo gradino, di tanto appunto remota dalla verità, o no? Sì. E rispetto a quale facoltà dello spirito umano esercita questa sua grande azione e questa sua efficacia? Cosa intendi dire? Intendo così. Una grandezza, pur essendo la medesima in relazione alla vista, non appare sempre la medesima se la si vede da vicino o da lontano. No, certo. E un medesimo oggetto appare diritto o curvo secondo che lo si guarda o dentro o fuori dell'acqua. Appare concavo o convesso per l'errore della vista in rapporto ai colori. Insomma, l'anima nostra è assai confusa se deve pronunciare un giudizio, su questo non c'è dubbio, della quale nostra condizione naturale approfitta appunto la pittura e ne risulta un qualche cosa simile alla magia. Del medesimo genere, l'arte del prestigiatore e le altre arti del tipo che cercano illusione. Vero? E non è forse vero che la misura, il numero, il peso sono gli aiuti più opportuni su questi inconvenienti? Per opera loro non si impone in noi, per il grande o per piccolo, per la quantità o per il peso, l'apparenza di un processo indefinito, crescente o decrescente, bensì vale per noi ciò che ha numero, misura, peso determinati. Come no? Ma procedere a numerare, a misurare, a determinare sarà precisamente operazione spettante alla facoltà razionale dell'anima. Sì, di questa. E questa facoltà, quando avrà più volte esperito una misura e avrà osservato che vi sono cose reciprocamente più grandi o più piccole oppure uguali, finisce per ricevere impressione che le stesse cose nello stesso momento possano apparire contrarie. Sì. E non abbiamo forse detto che una medesima persona non può avere opinioni contrarie sopra una medesima cosa? Sì, e con perfetta ragione. Ma allora, quella facoltà dell'anima che esprime la propria opinione e non tiene conto della misura, non sarà certo quella che si esprime tenendone invece conto. Eh no, certo. Ma la facoltà che si basa sui dati della misura e del calcolo è la più nobile. Sì, e dunque? Dunque la facoltà che a quella s'oppone non appartiene alle facoltà nostre più nobili, necessariamente. E volendo precisamente arrivare a questo punto, dicevo che la pittura e in genere la mimetica compiono opere tutte remote da verità. La mimetica, inoltre, s'accompagna con la facoltà in noi lontana dall'intelligenza, amica fedele di questa che non ha meta esatta e conforme al vero. Non v'è dubbio, disse lui. Deteriore dunque la mimesi, con qualche cosa di deteriore s'accompagna e genera quindi prodotti deteriori. Naturale. E credi, continuai, che si tratti soltanto della mimesi rivolta alla vista? O non forse anche quella che si volge all'udito? La poesia, insomma. Eh sì, naturale pur questo. In ogni modo, dissi, non dobbiamo prestar fede soltanto in base a probabile relazione con la pittura. È bene pervenire fino a quella facoltà del pensiero da cui dipende la mimesi poetica e veder chiaramente se facoltà buona o deteriore. Certo, bisogna. E allora, ecco il metodo giusto. La mimesi poetica imita, diciamo, uomini in quanto agiscono, e le loro azioni possono essere volontarie o costrette da qualche forza. Da queste azioni, poi, consegue l'opinione di potersi trovare bene o male, conseguenza finale, dolore o gioia. Questa è la meta della mimesi, nulla di più. Ti pare? Nulla. E ti pare che in tutte queste azioni il comune parere sia concorde? O piuttosto come l'uomo quando si tratta della vista è in continua incertezza e formula, a proposito di uguali oggetti, nello stesso momento contrarie opinioni, così pure quando deve agire non è forse pieno di incertezza e lotta e combatte con se stesso? Del resto ricordo che su questo punto non c'è nemmeno bisogno in questo momento di metterci d'accordo. Poco fa abbiamo concluso assai bene sul problema e abbiamo detto che l'anima è piena di innumerevoli giudizi nello stesso momento contrastanti. Va bene, rispondeva. Va bene veramente, replicai, ma ora mi pare necessario trattare a fondo il punto allora lasciato da parte. Quale punto? Chiedeva. C'è un uomo, dissi, di temperata natura. Gli capita un'avversità di questo genere. Perde il figlio o persona particolarmente diletta. Dicevamo anche, poco fa, che quest'uomo può sopportare più facilmente degli altri la sventura. Sì, certo. Ora si tratta di fare la seguente indagine. Il dolore sarà veramente nullo, o invece questo non potrà accadere? Bensì, in qualche modo l'uomo arriverà a porre una misura alla sua angoscia. Così piuttosto, rispondeva, è questa la verità. E allora mi devi dire la seguente cosa. Credi che quest'uomo cercherà di resistere alla forza del dolore e contrasterà questa azione quando qualcuno lo vede o quando si trova solo con se stesso, nella solitudine? Oh, non c'è dubbio, rispondeva. Quando qualcuno lo vede. Quando si trova solo, credo, non avrà scrupolo di prorompere in lamenti e di piangere a gran voce. Certo avrà vergogna che qualcuno lo ascolti. Così si lascerà andare a qualche segno esteriore di angoscia, pur non volendo ammettere che altri lo veda in quella condizione. È così, rispondeva. Insomma, l'elemento contrastante e imperante è la ragione, e con essa un precetto che informa il costume e la vita. Ciò che invece lo trascina a segni di dolore è la sofferenza dovuta alla stessa sventura. Vero. E se ci sono impulsi contrari nell'uomo verso lo stesso oggetto contemporaneamente, dobbiamo dire pure che ci sono due distinti principi. Come no? E l'uno non è forse pronto ad obbedire a quel precetto secondo lo spirito della prescrizione? Come? Precetto, vedi, dice che la risoluzione più bella nella sciagura è serbare in ogni modo un contegno tranquillo, senza finire in eccessi. Certa è una cosa, non è affatto chiaro quale sia in quel momento il vero bene e il vero male. D'altra parte, chi non sopporta con rassegnazione il dolore, non ne ricava nulla lo stesso. D'altra parte ancora, non bisogna mai dar troppo peso alle umane vicende. In ogni caso, le manifestazioni eccessive di dolore sono di impedimento vero e proprio alla realizzazione di quello stato d'animo che, al più presto, in quelle circostanze, dovrebbe pur realizzarsi in noi. «A quale stato sono di impedimento?» chiese lui. «È impedimento a una decisione conforme a ciò che è accaduto. Si tratta di disporre le proprie cose come quando si gioca ai dadi. Si è ricevuto un colpo? Ebbene, seguiamo nel modo migliore la via verso cui ci spinge la ragione col suo consiglio, e non riluttare come fanno i bimbi. Essi tengono le mani sulla parte colpita e urlano e perdono inutilmente il loro tempo. Al contrario, abituare sempre l'anima a volgersi al più presto verso un rimedio, rivolgersi a ciò che è suscettivo di sollevare chi è caduto ed è infermo, annientare insomma il lamento con la medicina opportuna. Già, rispondeva, questo sarebbe il rimedio più conveniente nei momenti di sciagura. Ma anche, stiamo dicendo, la parte migliore di noi vuol seguire veramente questa nostra facoltà razionale. È chiaro? E invece, quella facoltà che resta aderente al ricordo della sciagura, che porta alla mente e ne è insaziabile, non dovremmo forse dirla facoltà irrazionale, oziosa e amica di ignavia? Certo, diremo. Ne consegue che questo elemento pronto alla commozione e agli eccessi è suscettivo di molta e di molteplice mimesi. Invece il carattere spirituale è calmo, in quanto coerente ed uguale sempre a se stesso, ebbene, questo carattere non si presta a mimesi. E ammesso pure che se ne compie imitazione, non è facile che se ne comprendano bene le caratteristiche. Tanto più poi una folla composita, raccolta in qualche adunato o in qualche teatro. In realtà, questa è mimosi di un fatto che riesce estraneo e sconosciuto. È proprio vero. Ed è chiaro inoltre che il poeta imitatore non ha naturale simpatia per questo tono dell'anima nostra, né d'altra parte l'arte sua cerca di compiacergli, seppur deve avere il successo e l'applauso delle folle. Al contrario, sarà tutto rivolto al tono passionale ed emotivo, a quel tono molteplice che riesce poi così facile da imitare. È evidente. Allora avremo ragione di prendere senz'altro il poeta e di porlo a riscontro del pittore. Intanto piena somiglianza, per il semplice fatto che il poeta produce immagini deteriori rispetto a verità. Così pure perché si volge a facoltà inferiori, si fa uguale a quelle e trascura le facoltà più nobili. Insomma, in una città che debba essere governata secondo buone leggi, non accoglieremo mai questo poeta mimetico e avremo piena ragione. Questa sua poesia, infatti, ridesta facoltà deteriore dello spirito, la sostiene e, rendendola vigorosa, porta a rovina la facoltà razionale. Avviene come in una città, dove si consente ai malvagi di diventare potenti e si affida ad essi il governo. Al contrario, si lasciano andare in rovina le persone per bene. Allo stesso modo diremo che il poeta mimetico produce, nella nostra interiorità, una ben cattiva costituzione. Egli che indulge alle facoltà più stolte dell'anima nostra, facoltà incapaci di riconoscere una misura più grande da un'altra più piccola, facoltà che anzi giudicano una medesima cosa, un momento grande, un momento dopo piccola, facoltà che producono ombre e fantasmi da ogni verità remote. Senza dubbio. Ma non abbiamo ancora formulato la massima accusa contro la poesia. Il guaio più terribile, vedi, è che può far danno enorme anche alle nature più temperate, escludendone poche veramente. Già, tale sarà l'effetto, ammesso che questa sia l'azione. Sta attento e osserva. Sai bene che ai migliori tra noi accade certo d'ascoltare Omero o qualche altro autore di poesia sublime, come la tragedia. Ecco, imitazioni d'eroi travolti nel lutto, ecco lunghi brani dedicati ad esprimere lamentazioni e canti e gesti violenti di dolore. Sai bene che pur queste nature migliori provano diletto e si abbandonano tutte all'incanto della poesia. Tutta la nostra emozione è protesa e seguiamo rapiti, intenti, pronti a celebrare quale ottimo poeta, colui che meglio riesce a portarci in questo stato d'animo. Capisco, come no. Quando invece un lutto ci colpisce, sai parimenti, che è nostra fierezza un contegno affatto contrario. Cerchiamo allora di star calmi e forti, in quanto si pensa che questo sia il contegno d'un uomo, l'altro d'una donna, quel contegno appassionato che poco fa seguivamo ammirati nella poesia. Lo so, sì, rispondeva. E ti pare opportuna, dissi, questa ammirazione? Per conto nostro avremmo vergogna immensa ad essere simili a un uomo siffatto. Ebbene, stiamo intanto a guardarlo e non gli rivolgiamo parola di biasimo, ma bensì ci dilettiamo di lui e gli tributiamo il nostro plauso. Per dirci, esclamò, un applauso irragionevole. Senza dubbio, risposi. Se poi osservi da questo punto di vista. Quale punto di vista? Devi considerare che i poeti offrono sazietà e soddisfazione precisamente a quella facoltà tenuta in freno a fatica in momenti di sciagura, affamata com'è di lamenti e di gemiti, essa che desidera saziarsene. Questa appunto la sua natura. D'altra parte, la facoltà nostra più nobile, siccome non è stata sufficientemente educata, rallenta mentre s'ascolta la poesia. La sua azione di custode su questa facoltà è gemebonda, evidentemente perché si tratta d'osservare vicende estranee, e non sembra una cosa brutta applaudire e seguir con simpatia nel suo lutto un uomo che afferma d'essere un onesto. Del resto si crede di poter mettere in attivo il piacere del divertimento, e non si è quindi disposti a privarsene e ad accogliere con disprezzo l'intero dramma. Vedi, appartiene a pochi il considerare che da tali estranee vicende qualche cosa inevitabilmente filtra nel nostro stesso carattere, perché se in queste condizioni si alimenta vigoroso un senso di simpatia per il dolore altrui, non è facile poi tenerlo in freno nei casi che riguardano la nostra stessa persona. Verissimo, diceva, e non vale lo stesso calcolo anche per il riso. Supponi, tu provi un senso di vergogna per conto tuo a fare il buffone e poi, in una rappresentazione pubblica o privata di mimesi comica, ti diletti di questi argomenti e non li eviti come dannosi. Non avviene lo stesso come per gli argomenti suscettivi di compianto e di compassione? Avviene che quell'elemento avido di ridere è bensì parimenti tenuto in freno dentro di te dalla ragione. Ti spaventa infatti la fama di buffone. Ma in quel momento, come nel caso precedente, tu lo lasci libero. In tale occasione gli infondi vigore e lo introduci più volte senza accorgertene nella tua privata esistenza. Finisci così per diventare tu pure un commediante. Purtroppo, rispondeva. Metti anche le vicende sentimentali, l'amore e simili cose. Metti l'ira e tutte le passioni, vuoi gradite, vuoi dolorose, che intervengono nell'anima. Ogni nostra azione desta inevitabilmente questi moti interni. Ebbene, la mimesi poetica è atta a suscitare in noi questi moti, li alimenta, li nutre, dando irriguo sostentamento. E invece bisognerebbe lasciarli avvizzire, se si desidera naturalmente che l'uomo possa diventare migliore e più felice, anziché peggiore e più sventurato. Non ho modo, concluse lui, di ribattere nulla. Veniamo a noi, continuai. Tu, caro Glaucone, potrai certo imbatterti in qualche esaltatore della poesia di Omero. Ti ripeterà che questo poeta è stato il maestro della Grecia. Ti ripeterà che è bene riprenderlo in mano e nutrirsi di sue cognizioni per saper governare ed educare veramente. Che secondo i precetti di questo poeta si deve disporre il tono di tutta la propria vita e così poi vivere. In tal caso non c'è dubbio Queste persone le potrai amorosamente baciare e abbracciare, persone veramente e assolutamente per bene. Potrai anche concedere che Omero è un poeta immenso, il principe della poesia sublime e austera a tono tragico, ma noi sappiamo perfettamente una cosa: di tutta la poesia si debbono accogliere nella città soltanto igni agli dei ed encomi ai valorosi. Se accoglierai al contrario la musa delle canzoni liriche o dei poemi epici destinata al diletto, in tal caso piacere e dolore governeranno la città, invece della legge e invece che di quella ragione che di volta in volta appare migliore alla comunità. Verissimo, rispondeva. E allora, ripresi, questo è quanto possiamo dire a nostra difesa di fronte alla poesia, dal momento che ne abbiamo fatto ancora ricordo. Insomma, abbiamo avuto ragione quando l'abbiamo eliminata, se tale è la sua natura, dalla nostra città. Parola con sua forza a ciò ne addusse. Dovremmo dirgli appunto che non ci accusi di cuore duro e d'animo rozzo. Antica, vedi, la rivalità tra filosofia e poesia. In realtà, la cagna che abbaia contro la sua signora e va urlando è un verso famoso, così pure possente in vacuità di sottigliezze stolte, e inoltre la turba dei magni sapienti che a Giove impera. Puoi mettere i famosi sottilissimi pensatori, quanta fame, e segni ve ne sono quanti vuoi dell'antica rivalità. In ogni modo, si dica una volta per sempre, se la poesia e la mimesi rivolte al piacere hanno qualche ragione positiva per dimostrare che la loro presenza conviene in una città ben governata, saremmo ben lieti d'accogliere questa ragione. Abbiamo coscienza di subire tutto il fascino della poesia. Sta di fatto, tuttavia, empia cosa è tradire ciò che appare vero. Del resto, non senti tu pure l'infinito incanto della poesia, in modo particolare poi quando Omero ne è l'interprete? Eh sì, in conseguenza, è giusto che poesia ritorni quando avrà fatto sua difesa o in lirica canzone o in altro metro pure, senza dubbio. E potremmo concedere ai suoi patroni, che non siano poeti ma pur amano la poesia, di recitare in prosa il discorso a difesa, ma dovranno dimostrare che non si tratta soltanto di dolcezza, ma che vi è in lei possibilità di giovare pure agli stati e alla vita umana. E noi, con ottime intenzioni, staremo a sentire. Non piccolo sarà infatti il profitto se poesia apparirà non solo dolce e soave, ma anche utile. E come non sarà piccolo questo profitto? Se ciò non sarà, mio caro, faremo come chi è innamorato di qualcuno e ha la convinzione che quest'amore gli possa apportare danno. Costui, pur a fatica, se ne tiene lontano. Alla stessa guisa, anche noi. Purtroppo, l'amore per poetica mimesi è profondamente radicato nell'anima nostra. L'educazione, secondo lo spirito di magnifiche patrie istituzioni, ha infuso in noi quest'amore. Perciò saremmo felicissimi che apparisse evidente la buona caratteristica naturale di poesia e la sua corrispondenza con la verità. In ogni modo, fino al giorno in cui poesia non si trovi in grado di dire un suo argomento di difesa, continueremo sì ad ascoltarla, ma nello stesso tempo ripeteremo, a guisa di incantamento, le ragioni ora dette, quasi fossero una formula magica, e staremo in guardia per non ricadere in quel puerile amore che più hanno. Continueremo anzi a cantarla, questa magica formula, e a dire che non vale la pena di spendere tanta fatica per una poesia che non può attingere la verità. Oh, non si tratta di cosa seria. Invece, l'ascoltatore che abbia un trepido senso per l'interiore costituzione dell'anima sua dovrà guardarsi dall'incanto che da lei promana. Insomma, essere ben convinti degli argomenti da noi detti a proposito della poesia. Oh, pienamente d'accordo, disse lui. Sì, e grave, caro Glaucone, è il cimento, quello ove l'uomo può riuscire buono o malvagio, grave davvero, e più di quanto si crede, serio e grave. In conseguenza, spinti da desiderio d'onore, di ricchezza, di pubblici uffici, di poetica gloria, non conviene trascurare giustizia e con questa l'altre virtù tutte quante. Sono d'accordo, rispondeva, dopo quanto abbiamo discusso, e credo che qualsiasi altro sarebbe d'accordo. Eppure, seguitai, non abbiamo ancora esposto le ricompense più grandi e i premi che ci attendono. Che grandezza smisurata, rispondeva, mi stai dicendo, se vi sono premi più grandi di quelli già detti. Cosa vuoi, ripresi, che in un tempo ristretto possa divenir grande? L'intero periodo da fanciullezza a vecchiaia è ben piccola cosa in confronto all'intera successione dei tempi. È già un nulla, rispondeva. Senti allora, cosa pensi di ciò? Una cosa immortale deve forse rivolgere ogni suo pensiero a questo periodo così breve e non forse all'intera successione dei tempi? Ne sono convinto, rispondeva. Ma perché questa domanda? Non ti sei accorto, replicai, che l'anima nostra è immortale, che morte non arriva a coglierla mai? E lui mi guardò fisso, pareva meravigliato della mia affermazione, poi continuò: in nome del cielo, io no. E hai proprio modo d'affermar questo? Sì, rispondevo, se non mi inganno. Del resto lo puoi vedere anche tu. Non è poi cosa molto difficile. Oh, per me sì, e mi piacerebbe sentir da te questa cosa non difficile. La sentirai, dissi. E parla allora. Non chiami qualche cosa il bene e il male? Io sì. E sul male e sul bene hai la stessa opinione che ho io? Quale? Ciò che dissolve e corrompe è il male, ciò che salva e dà giovamento il bene. D'accordo, rispondeva. Senti allora, non affermi che vi sia per ciascuna cosa un bene e un male. Per esempio per gli occhi, il male degli occhi è in genere per l'organismo intero la malattia, per il grano la robbigine, la putredine per il legno, la ruggine per il ferro e per il bronzo. Insomma, come sto dicendo, vi è, secondo naturale inerenza, per le singole cose, quasi tutte, qualche singola causa di male e di morbi. Affermo, sì, rispondeva. Allora, una simile causa, quando agisce, rende patito e sofferente ciò su cui agisce. Anzi, conclude per dissolvere interamente e per distruggere la singola cosa. Come no? Questa forma di morbo e di sofferenza particolare, assegnata da natura, distrugge le singole cose. E se questo male non è capace di distruggere, non c'è nulla che possa distruggere quella cosa. È positivo, infatti, che non sarà certo il bene a portare distruzione, come neppure gli elementi né utili né dannosi. Come potrebbe essere? Rispondeva. Supponi ora, una certa cosa ha un suo elemento che le è avverso e cattivo e che le porta precipuo danno. Questo elemento, tuttavia, non riesce a dissolvere quella certa cosa e a distruggerla. In tal caso, sapremo senz'altro che per quella certa cosa, così per natura congegnata, non c'è modo d'arrivare alla distruzione. Così, rispondeva, è naturale. Senti allora, dissi, e l'anima? Non c'è davvero nulla che sia capace di apportarle danno e di renderla cattiva? Purtroppo, esclamò lui, tutti quei mali che ora appunto dicevamo, ingiustizia, sfrenatezza, viltà, ignoranza. Ma uno di questi mali arriva a dissolverla e a distruggerla, e sta attento, non vorrei che fossimo addotti in inganno. Noi non crediamo affatto che l'uomo ingiusto e stolto, quando venga ghermito dall'ingiustizia, muoia per effetto dell'ingiustizia, che pure è il male vero e proprio dell'anima. Ragioniamo un po' in questo modo. Nel corpo, per esempio, rovina vera e propria la malattia, e la malattia logora e rovina e porta l'intero organismo al punto di non essere più nemmeno un organismo. E le cose di cui poco fa dicevamo, tutte quante, per opera di un loro male particolare, pervengono appunto a non essere più. Il male viene ad inserirsi, a dimorare quasi, e compie l'opera sua di dissoluzione, non è così? Sì. Su via, allora, considera anche l'anima nello stesso rapporto. Ti pare che l'ingiustizia e ogni altra malvagità, dimorando nell'anima, per il fatto appunto di dimorare e di inserirvisi quasi, la porti alla rovina e alla consunzione, fino al punto di condurre quell'anima alla morte e di distaccarla dal corpo? No, rispondeva, questo non avviene affatto. Ma, d'altra parte, abbiamo detto, sarebbe una contraddizione che un male estraneo fosse capace di distruggere qualche cosa che non può venir distrutta dal male particolare e proprio. Contraddizione? Sì, e sta bene attento, caro Glaucone. Certo, il corpo non può perire per l'azione dannosa di qualche cibo quando in questo cibo ci sia qualche male particolare alla sostanza del cibo stesso. Per esempio, il cibo non è fresco, è in putrefazione, qualsiasi altro accidente. Bensì, bisogna che questo particolare male dei cibi, infuso nell'organismo, dia origine a sua volta al male particolare del corpo. In tal caso diremo che il corpo risulta annientato per opera di questi cibi, ma che causa prossima è stato un male particolare al corpo, una malattia insomma. Ma non vorremmo mai pretendere che direttamente per il male particolare ai cibi, e questi cibi sono diversi dal corpo che pure è diverso, che per opera di un male estraneo e non adatto a suscitare il male specifico e caratteristico del corpo, insomma, in queste condizioni non potremo mai pretendere che il corpo pervenga alla distruzione. Tu hai, rispondeva, perfettamente ragione. Secondo un uguale ragionamento, qualora il male del corpo, infuso nell'anima, non possa indurre in quella il male caratteristico e specifico, certo non potremo mai concludere che l'anima si distrugga per un male che le è estraneo, a meno che questo male non provochi nell'anima il processo di male a lei caratteristico o specifico. È una ragionevole conclusione, rispondeva. Allora, o vi riesce di dimostrare che le nostre argomentazioni sono errate, oppure, finché resteranno senza confutazione, non potremo mai dire che una febbre, una qualche altra malattia, una ferita grave, neppure vedi se si tagliasse il corpo intero in pezzi piccolissimi, ebbene, non diremo mai che per questi motivi l'anima pervenga a distruzione. Bisognerà prima dimostrare che, per queste sofferenze proprie del corpo, essa stessa, l'anima, è divenuta più empia e più ingiusta. Quando dunque un male estraneo si inserisce in un organismo e d'altra parte non insorge in questo il male suo caratteristico e specifico, non dovremo consentire a nessuno di dire che questo organismo pervenga a distruzione, sia l'anima o qualsiasi altra cosa. Ma è un fatto, rispondeva, questo punto qui nessuno lo potrà mai dimostrare, che cioè l'anima di chi muore divenga più ingiusta per opera della morte. E ammesso il caso, continuavo, che qualcuno, per non essere costretto ad ammettere che l'anima è mortale, avesse il coraggio di sostenere ed affermare che il morente diventa più ingiusto e più cattivo, in tal caso affermeremo anche noi un altro punto. Se è vera questa tesi, diremo che l'ingiustizia senz'altro è causa di distruzione per chi in sé alberga questo grave morbo. Diremo che veramente, per opera di lei, capace com'è per sua stessa natura d'uccidere, muoiono quanti in sé la contraggono. Più presto quelli che ne contraggono fortissima l'infezione, più lentamente invece chi meno grave la contrae. Un fatto in ogni caso è certo, l'anima dell'ingiusto non muore, no, assolutamente, perché altri, come oggi avviene, gli imponga giusta pena in conseguenza dell'ingiustizia commessa. Per dirci, disse lui, se fosse vero quello che dici, l'ingiustizia non apparirebbe mai una cosa terribile, se l'ingiustizia cioè fosse capace da portare morte a chi la prende in sé, sarebbe in tal caso liberazione dal male. Ma piuttosto, credo, ingiustizia apparirà per via del tutto opposta, capace sì d'uccidere, ma gli altri, seppur le riesce. A colui invece che la possiede, ingiustizia dona potenza di vita, un uomo tanto vitale che non riesce più a dormire, a tal punto ingiustizia è remota dall'essere mortifera. Hai ragione, dissi. Quando dunque lo specifico e caratteristico suo male e lo specifico e caratteristico suo pervenimento non sono sufficienti ad uccidere e a distruggere l'anima, Come puoi pensare che un male, disposto alla rovina da altre cose, la possa distruggere? Certo, solo un elemento disposto a questo scopo potrà distruggere così l'anima, come qualsiasi altra cosa. Certamente, rispondeva, pare naturale. Ne consegue evidentemente che siccome l'anima non è distrutta da nessun genere di male, né proprio né estraneo, sempre l'anima è. Consegue quindi inoltre che se sempre è, anche sia immortale. Necessariamente. E allora, questo è dimostrato. E se ciò è dimostrato, comprendi che le anime saranno sempre le stesse. Non è possibile, infatti, che il numero ne diminuisca perché qualcuna perisce, né, d'altra parte, che diventino di più. In realtà, se nel novero delle cose immortali ci fosse un aumento, puoi esser certo che dovrà provenire dal novero mortale, con la conseguenza che tutto finirebbe per essere immortale. È vero, ma, ripresi, non dobbiamo ammettere questo punto, né del resto il ragionamento ce lo concede, e nemmeno dobbiamo ammettere che l'anima nella sua natura più vera possa venir formata di parti molteplici e varie, diseguali e discordanti con se stesse. Come intendi? Rispondeva. Non è facile, dissi, che una sostanza sia eterna se composta di molti elementi, a meno che questa composizione non sia perfetta come ora ne apparve l'anima. Sicuro, non pare probabile. Insomma, la dimostrazione ora compiuta e altre molte ancora potrebbero ineluttabilmente addurre a credere che l'anima sia immortale. D'altra parte, per comprendere quale sia l'anima nella sua caratteristica più profonda, bisogna considerarla non contaminata dal corpo, dall'unione con lui e dall'azione di tutti gli altri malanni. Così la si considera ora. Bisogna invece fare attenzione per mezzo del ragionamento e cercare di vederla com'è nella sua purezza. La si troverà allora di gran lunga più bella, e più bene si vedranno i lineamenti di giustizia e le conclusioni che ora abbiamo scoperto. La verità, tuttavia, da noi esposta, si riferisce alla sua attuale condizione, e quest'anima che abbiamo studiato e intravisto non sarebbe molto diversa dall'aspetto del marino Glauco. Certo, se si arriva a vedere la creatura marina, non se ne può scorgere facilmente l'antico aspetto, come quelle membra d'un tempo sono state spezzate e i flutti ne hanno logorato altre, e tutta la primiera figura è stata deturpata, e cose estranee le si sono aggiunte, conchiglie, alghe, sassi. Insomma, Glauco assomiglia a qualunque altro essere vivente, non più a se stesso. La medesima cosa avviene anche per l'anima. Noi la osserviamo travagliata da un numero incredibile di mali. Bisogna invece, Glaucone mio caro, volgere lo sguardo verso un certo punto. Dove? Disse lui. A quella sua sete di conoscenza, e pensare attentamente ciò che per questa sete l'anima attinge, e pensare verso chi è rivolto il suo anelito, che profonda ne è l'affinità col divino, con l'immortale, con l'eterno, e pensare ancora quale diverrebbe se potesse tutta intera perseguire quest'impulso che la porta in alto, se potesse, trasportata da quest'impulso, uscir fuori dal pelago in cui oggi si trova e scuoter via pietre e conchiglie. Tutte queste cose terrose e pietrigne e innumeri e selvagge che si sono aggiunte e sono concresciute in lei, nutrite purtroppo di terra, in questi convivi che si sogliono chiamare convivi di felicità. Oh, allora se ne potrebbe vedere la vera natura, e si vedrebbe se l'anima è plurima o semplice, come essa veramente sia e in quale modo. Per ora, in ogni caso, ne abbiamo a sufficienza considerato, così mi pare, le condizioni e gli aspetti durante la vita terrena. Certo, rispondeva. In conclusione, dissi, parola, come vedi, ha potuto risolvere benissimo ogni aspetto del problema, senza ricorrere ai premi che dovrebbero compensare la giustizia, senza mettere in conto gloria e reputazione, il che, secondo voi, farebbero Esiodo e Omero. Ci fu permesso di trovare che la giustizia in sé è il bene migliore per l'anima in sé, e che l'anima deve operare con giuste azioni, sia nel caso che possegga l'anello di Gige, sia nel caso che non lo possegga. E non solo questo famoso anello, ma anche in più l'elmo di invisibile. Hai ragione, rispondeva. E allora, Glaucone caro, non ci si farà certo censura se, a prescindere da quanto abbiamo esposto, anche restituiremo alla giustizia e ad ogni altra virtù i giusti premi. Vedremo quanti premi e di quale grande misura, da parte di uomini e da parte di dei, provengano all'anima per opera di giustizia, vivente ancora l'uomo giusto, come pure dopo la sua morte. Oh, va benissimo, diceva lui. E mi vorrete restituire il pegno che avete preso a prestito da me nella discussione? Che cosa, precisamente? Ho concesso a voi che il giusto potesse sembrare ingiusto e l'ingiusto giusto. Vi chiedevate, infatti, che, anche se in realtà non è possibile che la vera condizione rimanga celata a dei e ad uomini, questa ipotesi, tuttavia, dovrebbe venire ammessa per ragioni dialettiche. Così soltanto si sarebbe potuto giudicare la giustizia in sé e per sé di fronte all'ingiustizia pure in sé e per sé. Non te ne ricordi? Avrei torto se non me ne ricordassi. Ormai, dunque, il giudizio è pronunciato, continuai. In conseguenza, vorrei di nuovo proporvi una mia richiesta. Dovete cioè tenere in giusto conto la stima di cui giustizia gode da parte di dei e di uomini. Così potrà farsi bella anche dei premi che, in quanto riconosciuta, viene acquistando e viene donando a chi la possiede. Non è risultato dall'intera discussione che quanto è vera giustizia concede il bene, senza ingannare mai chi veramente l'accoglie? È giusta, rispondeva, è la tua richiesta. Allora, dissi, questo me lo concederete in pieno diritto, non è vero? Agli dèi non rimane nascosta la vera condizione dell'uno e dell'altro, del giusto e dell'ingiusto. Te ne faremo giusta concessione. E se non rimangono nascoste le due diverse condizioni, l'uno sarà amico a Dio, l'altro gli sarà nemico, ciò s'ammise in principio. È così. E non dovremmo forse ammettere che, se qualcuno è amico a Dio, a costui si concede quanto il cielo concede, tutto in perfetta plenitudine. Unica eccezione, qualche necessaria sventura, proveniente da errori di una precedente esistenza. Perfettamente. Il nostro giudizio, dunque, sull'uomo giusto sarà espresso in questi termini. Afflitto da morbi, tormentato da miseria, oppresso da qualsiasi altro caso, un caso tra quelli che si sogliono ritenere apportatori di sciagure e di dolore, per quest'uomo così da vivo come quando sarà morto, ogni evento deve consumarsi in bene. Oh, gli dèi, statene pur sicuri, non abbandonano chi con pieno atto di volontà si sforza di essere giusto, non abbandonano chi esercita virtù e vuole diventare, per quanto è possibile ad un uomo, eguale a Dio. È proprio vero, rispondeva, non sarà abbandonato da chi è eguale a lui. E non si deve forse pensare tutto il contrario per l'ingiusto? Sì, certo. Allora, ecco, sono questi i premi di vittoria per il giusto, elargiti dagli dèi. Sì, anche secondo la mia opinione, rispondeva. Senti, allora, continuai, e da parte degli uomini? Se si deve stabilire verità, la condizione dei fatti non è questa, forse? Non ti pare che gli uomini ingiusti, così furbi e accorti, facciano quello che fanno taluni corridori quando corrono bene nel giro d'andata, ma non nel giro di ritorno? Al primo momento balzano via rapidi, ma poi alla conclusione fanno ridere. Vedi come basse e dimesse le orecchie e s'allontanano senza premio. Invece i corridori veri e propri arrivano alla conclusione della corsa, riportano il premio e vengono incoronati. Lo stesso accade, per lo più, anche coi giusti. Al termine di ogni atto, di ogni relazione coi propri simili, i giusti, a conclusione della vita tutta, acquistano buona rinomanza e ricevono premi dagli altri uomini. Sì, e adesso potrei ammettere che io dica su questi giusti quanto tu stesso dicevi sugli ingiusti. Dirò dunque che i giusti, quando si trovano avanzati negli anni, reggono, se vogliono, il governo della loro patria. Possono prendere una sposa da qualsiasi famiglia desiderino. Le figlie possono darla in sposa a chi più piace. E tutti gli argomenti che proponevi su quelli, te li ripeto ora per questi giusti. Reciprocamente, poi, anche sugli ingiusti, e più di costoro, ammettiamo pure che, finché son giovani, possano anche tener celata la loro impietà, vengono poi colti al termine della corsa e fanno ridere allora, e poi diventano vecchi e vengono miseramente insultati da stranieri e da cittadini. Saranno flagellati allora, e quegli argomenti che dicevi un po' crudi, e avevi ragione, che saranno cioè torturati e che quegli occhi saranno bruciati. Ebbene, sta pur sicuro, hai già sentito da me che questi argomenti si potranno applicare a loro. Ma fa attenzione, ti par davvero di concedermi quanto ti sto dicendo? Oh, certo, rispondeva, sono argomentazioni giuste le tue. Ecco dunque, conclusi, i premi, le ricompense e i doni che, mentre il giusto è vivo, sono offerti a lui dagli dèi e dagli uomini, e il tutto a prescindere da quei beni che giustizia per se stessa può offrire. Già, concludeva lui, premi grandi e sicuri. Ebbene, continuai, nulla sono, né per numero né per grandezza, in confronto a ciò che attende ogni individuo quando ha finito la sua esistenza. Conviene anzi sentirli ed enumerarli, affinché ciascuno per suo conto, il giusto e l'ingiusto, possa una buona volta dire d'aver ricevuto per mezzo di parola tutto ciò che gli spetta. Puoi cominciare senz'altro, rispondeva, nessun altro argomento mi sarebbe più gradito. Oh, dissi, non ti riferirò certo un racconto come quello di Alcino, ma il racconto di un valoroso. Er, il figlio d'Armenio. E una volta costui morì in guerra. Furono raccolti, dopo 10 giorni, i corpi dei caduti tutti già disfatti, e lui invece fu raccolto intatto. Lo si portò a casa e stavano sul punto di seppellirlo. Erano trascorsi 12 giorni. Ebbene, sulla pira giaceva e tornò in vita. Ritornato in vita, riferì ciò che di là aveva visto. Quando l'anima venne fuori dal corpo, insieme con molte si pose in cammino e giunsero in un certo miracoloso luogo. Ivi erano sulla terra 2 voragini, l'una vicina all'altra, e 2 altre voragini in alto nel cielo opposte alle prime. E giudici stavano in mezzo tra queste e quelle. Ogni volta che pronunciavano un giudizio, imponevano ai giusti di procedere per il tramite di destra, quello verso l'alto, attraverso il cielo, e ponevano sul petto opportuni segni della sentenza pronunciata. Gli ingiusti, invece, per il tramite di sinistra e verso il basso, e anche questi portavano sul dorso i segni dei loro delitti. Egli dunque si fece avanti e gli dissero che doveva diventare messaggero per gli altri uomini di quanto avveniva colà. Gli fecero così l'invito ad ascoltare e di badar bene a ciò che stava accadendo. Poté dunque vedere in quel luogo che, da una delle 2 voragini del cielo o della terra, si dipartivano le anime quando la sentenza era pronunciata, così pure dalle altre 2, da una, dalla terra, venivano su, insozzate e impolverate. Dall'altra, dal cielo invece, discendevano altre anime, purificate. E diceva che le anime via via sopraggiungenti avevano l'apparenza d'arrivare come da un lungo viaggio. Tutte liete pervenivano al prato. Qui vi si accampavano come in riunione di solenne festa, e quante si conoscevano si scambiavano i saluti. Quelle che salivano dalla terra chiedevano notizie di lassù alle altre, e quelle che venivano dal cielo notizie invece di quanto avveniva sotterra. e le une piangevano e gemevano, ricordando quanto avevano sopportato, prove innumerevoli e difficili, ricordando quanto avevano visto nel viaggio al di sotto della terra, e questo viaggio era durato 1000 anni. Altre invece, provenienti dal cielo, riferivano quanta gioia e quanta felicità avessero potuto sperimentare e quali straordinarie visioni di inarrivabile bellezza. Raccontare, Glaucone mio, tutto questo richiederebbe molto tempo. La cosa più importante, disse Er, gli apparve la seguente: d'ogni ingiuria e d'ogni offesa che ciascuno avesse fatto a singoli uomini, quelle anime avevano dato successiva espiazione, per ciascun caso un'espiazione decupla, e questa espiazione si svolge secondo la misura base di 100 anni, ritenendosi che tanta è la durata dell'esistenza umana. Secondo questa misura, le anime venivano sottoposte ad espiazione decupla della colpa. Metti dunque che ci fossero uomini colpevoli di molte uccisioni, uomini traditori della patria, dei commilitoni, uomini che avevano ridotto servi i loro simili o erano complici di qualche altra infamia. Ebbene, la punizione di tutti questi delitti singolarmente era decupla. Reciprocamente, chi avesse fatto opere buone e si fosse mantenuto giusto e santo, nello stesso rapporto trovava il compenso delle proprie azioni. In quanto poi a quelli che erano morti subito appena nati o avevano durato in vita poco tempo, riferiva altre notizie che non vale la pena ricordare. A chi invece si fosse dimostrato amante di Dio e dei genitori, come a chi avesse seguito contraria via, come pure nei casi di omicidio, Er narrava di punizioni specifiche o di mercedi ancor più grandi. Diceva infatti di essere stato presente mentre uno chiedeva dove fosse il grande Ardieo, e quest'Ardieo era stato principe e tiranno in una certa città della Panfilia. Erano ormai 1000 anni in quei giorni. Costui aveva ucciso il padre già vecchio e il fratello maggiore. Anche altri delitti senza numero aveva commesso, secondo ciò che si diceva. Insomma, l'anima, interrogata, esclamò: «Non viene e mai potrà venire». Abbiamo, vedi, potuto osservare, fra tante terribili visioni, anche questa. Quando ci trovammo vicini alla voragine ed eravamo sul punto di salire e ormai la nostra pena era finita, ebbene, vedemmo improvvisamente lui e altri. Erano, per la maggior parte, quasi tutti tiranni, ma c'erano anche uomini che avevano commesso nella vita privata altre colpe assai gravi. Costoro, dunque, credevano che sarebbero potuti salire in su, ma la voragine non li accolse. Un muggito si levava ogni qualvolta uno di questa gente malvagia, senza possibilità di rimedio, o anche uno che non aveva dato sufficiente espiazione, faceva tentativo di salire. A questo punto, continuò l'anima interrogata, entrarono in azione uomini selvaggi e tutti fiamma, i quali stavano lì accanto. Sentendo il boato, afferravano alcuni di quei malvagi e li portavano via. L'Ardieo, invece, e altri suoi compagni venivano legati con ceppi le mani, i piedi e la testa. Scagliati sul suolo, li scorticavano e li trascinavano lungo il sentiero, ma nella parte esterna. Venivano così dilaniati su rovi spinosi. E intanto questi uomini tutti fiamma indagavano gli spiriti che via via sopraggiungevano per quale motivo avvenisse la punizione, e dicevano che stavano conducendoli verso il Tartaro per gettarveli dentro. Allora, continuava Er, benché molte d'ogni genere fossero state le ragioni di terrore per quelle anime, questo superava ogni altro terrore. Terrore, insomma, di questo boato, quando ciascuno cercava di salire, e quando poi il boato non aveva opposto il suo divieto, tutti contenti andavano su. In conclusione, pene e punizioni, presso a poco, diceva, erano queste, e, corrispondenti, le ricompense. Quando poi le anime erano state 7 giorni, ciascuna per suo conto, sul prato, Er raccontava che quando sopraggiungeva l'8° giorno, tutte si levarono, e di là bisognava procedere innanzi. Dopo 4 giorni di viaggio, giunsero in un luogo dove si poteva vedere una linea di luce diritta attraversante tutto il cielo e la terra, proveniente dall'alto. Pareva una colonna ed era trascolorante, simile all'arcobaleno, più luminosa tuttavia e più pura. Un giorno di cammino e si raggiunse questa luce, e per entro si poterono allora scorgere, distese dal cielo fino alla parte centrale della colonna di luce, l'estremità delle catene di quello, perché questa luce tiene avvinto insieme all'universo non molto diversamente dalla legatura di funi che cinge le triremi. Alla stessa guisa, quella luce trattiene e costringe l'universo a sfera rivolgentesi, e il fuso di necessità, per opera del quale si compiono tutti i rivolgimenti della sfera, è attaccato alle due estremità. L'asta e l'uncino della cocca, in questo fuso, erano d'acciaio, il cercine del fusaiolo, invece, era commisto di questo metallo e di altri ancora, la sua figura del resto pari a quella dei comuni fusaioli. Stando alle parole di Er, il cercine del fusaiolo era fermato in questo modo, in un grande fusaiolo, cavo e completamente vuoto, ce n'era dentro uno di simile, ma più piccolo, perfettamente adattato al primo. Così, i vasi che si adattano l'uno nell'interno dell'altro. Alla stessa guisa, un altro fusaiolo, come terzo, e poi un quarto, e poi altri 4 fusaioli. Il fatto è che i fusaioli, in tutto, sono 8, l'uno sta dentro all'altro, e la parte superiore ne mostra gli orli circolari, in modo da produrre tutti insieme l'ininterrotta superficie di un unico fusaiolo intorno all'asta del fuso, e questo attraverso l'ottavo, nel centro di esso, da parte a parte penetrando, si volve. Il primo fusaiolo, il più esterno di tutti, presenta l'orlo circolare avente la massima superficie estensiva. Il sesto, invece, segue come secondo, terza la superficie del quarto, quarta quella dell'ottavo, quinta quella del settimo, sesta quella del quinto, settima quella del terzo, ottava quella del secondo. E l'orlo del fusaiolo più grande è di diversi colori. Quello del settimo è luminosissimo. Il colore dell'ottavo è il riflesso del settimo. Quello del secondo e del quinto sono molto simili, più fulvi dei precedenti. Il terzo orlo ha un colore candidissimo. Il quarto un colore rossastro. Il sesto è per sua bianchezza in secondo grado. L'intero fuso si volve con uniforme rapidità e, mentre il tutto viene evolvendosi, i 7 cerchi interni quietamente pure si volvono con un moto contrario a quello del tutto. Ma, particolarmente, l'ottavo cerchio si volve col più rapido moto. Seguono quindi, secondi e con pari reciproco moto, il settimo, il sesto e il quinto. Come terzo grado, pareva loro che, col suo movimento retrogrado, tenesse il quarto ciclo. Questo quarto teneva il terzo, quinto grado, il secondo. E il fuso giace sulle ginocchia di necessità. E una sirena sta su ciascuno dei cerchi in alto ed è portata in giro col moto di ciascun cerchio. Ciascuna sirena emette unica voce, ciascuna la sua nota. 8 sono e ne risulta unica tonalità di musica. E vi sono poi ancora 3 figure di donna che stanno in giro, ad eguali intervalli, ciascuna in un trono. Sono le figlie di necessità, le Moire. Bianche le vesti, sul capo corone, Lachesi, Cloto e Atropo. E l'inno della loro canzone ha per accompagnamento l'unico tono delle sirene, e Lachesi canta le cose che furono, Cloto le presenti, Atropo le cose che saranno. E Cloto, con la mano destra, insieme alla madre, fa volgere in giro a regolari intervalli col suo tocco l'esteriore rivoluzione del fuso. Atropo, invece, con la mano sinistra, per conto suo mette in moto a regolari intervalli la rivoluzione interna. Lachesi, da ultimo, alternativamente va regolando ora l'una, ora l'altra rivoluzione con l'una mano e con l'altra. Continuava dunque Er a raccontare che lui e il suo gruppo erano appena arrivati e immediatamente dovettero recarsi dinanzi alla Chesi. Un ministro dapprima distribuì in ordine i nuovi arrivati, distinti l'uno dall'altro. Quindi prese dal grembo di Lachesi alcune tessere segnate con progressivi numeri e tipi vari di esistenza. Salì sopra un'alta tribuna e poi cominciò: Bando della Vergine Lachesi, figlia di necessità, anime destinate a vivere pochi fugaci istanti nel corpo, ecco l'inizio di un nuovo ciclo e apporterà una morte ancora, e voi farete parte di stirpe mortale. Non un demone avrà per sorteggio il possesso di voi, voi dovrete scegliere il demone vostro. Chi uscirà primo nel sorteggio, primo sceglierà il tipo di vita, e a questo tipo, per necessaria ragione, dovrà insieme sempre aderire. Virtù non ha padrone, chi la onora o la dispregia, per conto suo ne avrà retaggio minore o maggiore. Responsabilità tutta di chi sceglie. Dio senza colpa. Disse il ministro queste parole, gettò le tessere e tutti la propria tessera ebbero. Ciascuno scelse quella che gli era caduta appresso. Non così lui, Er. Il ministro non glielo concesse. Chi aveva preso la propria tessera sapeva invece il turno preciso. Dinanzi a loro, quindi, sul terreno, il ministro pose i tipi vari di esistenza, in numero più grande che non le anime ivi contenute, e ce n'erano di ogni genere, le vite di tutti gli esseri animati e, particolarmente, tutti i tipi di vita umana, tiranni di complete, altre invece interrotte per qualche sventura, risolte in povertà, esilio, miseria, e c'erano pure esistenze illustri, talune per qualità fisiche, bellezza, forza, capacità di combattere, altre per nascita, per virtù di maggiori, e c'erano anche esistenze di uomini oscuri, disposte pur queste in modo simile, parimenti sorte di donne. Nulla invece di definito per le singole anime. In realtà, ineluttabilmente, il definitivo carattere dell'anima dipende dal genere di vita prescelto. Ancora, altre sorti presentavano ricchezza con povertà, l'una con l'altra commiste, malattie e salute, altre ancora condizioni intermedie. Qui, appunto, mio caro Glaucone, qui tutto è il pericolo per l'uomo. Si deve anzi far speciale esercitazione, e ciascuno di noi deve lasciare andare appunto perciò ogni altro studio e ogni altra cognizione. Tutti dobbiamo essere indagatori e discepoli di questa sola disciplina. Tutti dovremo cercare di conoscere e di trovare un maestro che ci metterà in grado di poter distinguere con sapienza e riconoscere una vita utile e una vita dannosa, e scegliere quindi, per quanto è possibile, la vita migliore. Meditare dunque attentamente le varie conclusioni ora esposte, considerarle nel reciproco complesso come pure parte a parte, metterne in luce le possibilità rispetto a una vita buona e virtuosa, sapere quale effetto produce bellezza commista a povertà o a ricchezza e in quale condizione si possa compiere opera buona e cattiva, conoscere le conseguenze di una nascita illustre e le conseguenze di una nascita oscura, l'effetto di una vita aliena da ambizioni politiche, di un esercizio d'onori e di civile attività, il risultato del vigore fisico e di una costituzione delicata, di una prontezza mentale e di un ingegno lento e tardo, e così per altre doti dell'anima, naturali o acquisite. Sapere, insomma, le conseguenze di tutto nel reciproco gioco dell'esistenza commisto di cause e di effetti, ed essere in grado di distinguere una vita migliore o peggiore tra quei paradigmi di vita, tenendo fisso lo sguardo alla natura dell'anima, e peggiore chiamar tal vita che condurrà l'anima verso quel punto in cui diverrà più ingiusta, migliore invece al punto dell'anima più giusta, e ad ogni altra meta, ad ogni altro ideale rinunciare, si vide che al vivente, a chi è morto, scelta suprema è questa. E sia dura come acciaio la nostra convinzione, e soltanto così andar presso invisibile, così anche là potremo restar calmi, senza lasciarci soggiogare da ricchezza, da terrena felicità, da malanni di questo genere. Non finiremo così tiranni, non sceglieremo altre condizioni di questo tipo, per commettere quindi delitti senza rimedio in numero immenso e subirne poi ben più gravi conseguenze. Si deve anzi avere prudenza abbastante per scegliere sempre una vita intermedia tra le condizioni estreme, fuggire gli estremi in questa vita per quanto si può e in tutta la vita futura. Così soltanto l'uomo può diventare del tutto felice. Messaggero giunto dal mondo di là, continuando, riferiva che il ministro così poi aveva detto: «Anche a chi giungerà ultimo, purché abbia scelto con discernimento e conduca austeramente sua vita, è concessa esistenza buona, non cattiva, né chi è il primo nella scelta agisca con precipitazione, né l'ultimo si lasci scoraggiare». Queste le parole del ministro. E disse che il primo nel turno, subito facendosi avanti, scelse la tirannide più grande. La scelse spinto da stoltezza e da cupidigia, senza considerare abbastanza. Anzi, non s'accorse che c'era in essa destino di divorare i figli e altri misfatti. Ma quando poi l'infelice ebbe modo di considerar la cosa, si percuoteva e si doleva per quello che aveva scelto, non certo coerente alle parole del ministro, perché di quelle sciagure non incolpava se stesso, ma il caso, le potenze superiori e tutto, piuttosto che se stesso. Quest'infelice era uno di quelli discesi dal cielo. Nella precedente vita era vissuto in una città ben governata. Aveva acquistato virtù per abituale impulso, non per conoscenza e per amore, non per filosofia, insomma. Si potrebbe anzi dire che non pochi fra quanti venivano dal cielo erano colti in tale inganno. Essi hanno poca esperienza del male. Quanti invece venivano dalla terra, ed erano molti, hanno personalmente affrontato sventura o ne hanno potuto vedere esempi in altri, e non facevano certo la scelta affrettatamente. Per questi motivi, oltre che per ragioni di turno, tante anime sono condotte a scelta errata di ciò che è bene e di ciò che è male nella vita. Se si persegue invece, ogni volta che si perviene a questa esistenza, lo studio di filosofia, secondo sani principi, sempre, se la tessera per la scelta non sarà proprio tra le ultime, è molto probabile, secondo le notizie di là riferite, che l'uomo possa trovare felicità. E non solo qui, ma potrà compiere il viaggio, di qui verso là e un'altra volta verso qui ancora, non per via sotterranea e aspra, ma lieve e celeste. Continuava intanto narrando lo spettacolo delle anime che sceglievano la vita, uno spettacolo che faceva pietà e nello stesso tempo ridere, una cosa interessante, insomma. Il più delle volte la scelta era fatta in base all'esperienza della precedente vita. Vide, per esempio, così narrava l'anima che era stata un tempo di Orfeo. Stava scegliendosi la vita di un cigno. Per odio contro le donne, in seguito alla morte dovuta appunto al loro odio. E quell'anima non voleva nascere concepita da donna. Così pure l'anima di Tamira, che s'era scelta una vita d'usignolo e poi un cigno, aveva cambiato la propria condizione e aveva scelto vita umana, e altri uccelli musici allo stesso modo. L'anima, invece, che aveva il 20° posto, scelse vita d'un leone. Era di Aiace Telamonio, memore del giudizio dell'Armi, non voleva saperne di diventare un uomo. La seguente dopo questa, l'anima di Agamennone, per antipatia dell'umana natura, dopo tante sventure, cambiò con vita di aquila. A metà della serie l'anima di Atalanta scorse quanti onori spettassero ad un atleta, non poté resistere e ne scelse la vita, e dopo di lei ervide l'anima di Epeo, figlio di Panope, che finì in una vita di donna per natura ingegnosa e industre. Disse infine che tra le ultime vide l'anima del ridicolo Terzite, andò a rivestirsi della specie di scimmia. Il caso volle poi che l'anima di Odisseo avesse avuto il turno ultima tra tutte. Venne avanti per scegliere. Memore dei precedenti affanni e libera ormai di ogni ambizione, se ne andava cercando in giro per lungo tratto di tempo vita d'uomo lontana dalle cure dello Stato. A fatica ne trovò una. Evidentemente era stata dagli altri trascurata e giaceva lì. Odisseo la vide e dichiarò che, seppure avesse avuto in sorte il primo turno, avrebbe fatto lo stesso. La prese dunque e l'anima sua ne era tutta lieta. Allo stesso modo gli animali. Animali venivano alla vita umana, oppure uomini si cambiavano in animali, e gli ingiusti in feroci, i giusti in animali domestici. Avvenivano così scambi d'ogni genere. Quando poi tutte le anime ebbero terminato di scegliere i tipi vari di vita in ordine, secondo il turno già sorteggiato, si presentarono dinanzi all'Achesi, e l'Achesi inviò ciascuno definitivo custode per la vita ed esecutore che avrebbe consumato il singolo tipo, quel demone che ciascuno si era scelto. E ogni demone condusse le anime prima di tutto presso Cloto, proprio sotto la mano di lei e sotto vorticoso giro del fuso. Il demone veniva con questa a ratificare quella sorte che l'anima s'era presa, toccava il fuso roteante e di nuovo conduceva l'anima ove Atropo stava filando. E il destino filato era reso irrevocabile, e di là, senza che più si potesse tornare indietro, l'anima giungeva sotto il trono di necessità. Le singole anime dovevano compiere un giro completo di fronte a quel trono, e quando tutte ebbero compiuto la sfilata, si missero in cammino verso la pianura di Lete. C'era caldo e arsura immensa, un luogo deserto, senza alberi, la terra non produceva nulla. S'accamparono dunque tutti. Giunse la sera, ed erano sulle rive del fiume, il cui nome suona oblio di ogni cosa. Nessun vaso può contenere l'acqua di quel fiume, e tutti dovevano bere una misura di quell'acqua. Ma chi non è aiutato da prudenza continua a bere più del giusto, e a mano che beve, dimentica ogni cosa. Le anime, intanto, s'erano disposte al riposo, e venne mezzanotte, e ci fu tuono e terremoto, e allora improvvisamente da quel luogo un'anima di qua, un'altra di là, fu trasportata in alto. Era il momento della generazione. Uno scintillio, un rapido moto, parevano stelle. Per conto suo, Er non poté bere acqua. Non sapeva in ogni caso per quale via e per quale modo fosse tornato al corpo suo. Fu tutto un momento. Aperse gli occhi e vide che era disteso sulla pira. Era la prima aurora. E in tal modo, caro Glaucone, siccome Er è ritornato in vita, il racconto è stato salvato e non andò perduto. Certo, potrà salvare anche noi. Si tratta di prestar fede alle parole di questo racconto. Così potremo varcare il fiume di Lete e l'anima non sarà contaminata. E noi, se presteremo fede a quanto dico, convinti che l'anima sia immortale e suscettiva di commettere non solo ogni male, ma anche ogni luce di bene, ci terremo sempre allora per via che mena in alto e sempre seguiremo giustizia in visione intelligente e spirituale. Così potremo essere amici a noi e anche agli dèi saremo amici. E questo per il tempo in cui dovremo restare sulla terra. Poi, quando riceveremo premio di nostra vita giusta, e sarà come per i vittoriosi negli agoni ginnici che vanno intorno raccogliendo il premio, non solo qui, ma anche nel millenario cammino da noi descritto, potremo trovare finalmente una condizione buona.